i soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Sì, Deborah Rosciani e Mauro Meazza, ma questa mattina solo Mauro Meazza. Buongiorno a tutti, solo come l'Inter capolista solitaria in vetta alla classifica, e lo dico per fare subito arrabbiare Peter Bescapè dall'altra parte del vetro, anche se più sereno, più sollevato dopo la vittoria imperiosa di ieri del suo Milan qui a San Siro sul Bologna nella serata di ieri. Un sorriso sarcastico, guarda, è cominciata la remontada, Peter, puoi stare sereno, tu come anche Alessandro Milan che ci ha preceduto in questo studio. Parlo un po' così leggero perché non solo l'autorevole leggerezza, come sapete, è la cifra di Due di Denari, che dalle 11 alle 12 vi tiene compagnia con tematiche molto legate appunto al vostro denaro, ma perché oggi poi abbiamo un argomento particolarmente delicato, che è quello delle pensioni e dei fondi pensione. Ne parliamo perché domani si svolgerà l'Assemblea Nazionale dell'Associazione dei Fondi Pensione, su Fondi Pensione, quindi è un momento anche di verifica di come sta andando questo sistema del cosiddetto secondo pilastro, cioè oltre alla pensione quella garantita dall'INPS o dalle casse professionali, c'è questa possibilità di integrare con un assegno supplementare per categorie. Ne parleremo a lungo, è con me ospite, lo vedete già se ci seguite la nostra pagina Facebook, qui in studio Marco Loconte. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Marco. Marco, come dico spesso, scrittore di fantascienza, poiché appunto si occupa della pensione, lui sostiene che esiste. Eh già. E per qualcuno, insomma, È un augurio. No? Ci auguriamo tutti che esistano. Ne parleremo poi anche con Giovanni Maggi, con cui ci collegheremo tra poco, presidente di Assofondi Pensione. Naturalmente è lunedì e allora, come tutti i lunedì, cerchiamo di vedere che settimana si prospetta sui mercati. È una settimana delicata perché ci aspettiamo il rialzo dei tassi di interesse degli Stati Uniti. Questo è il motivo principale che dovrebbe, attorno al quale dovrebbero ruotare gli andamenti dei mercati. Naturalmente, se avete domande sulle pensioni, sui fondi pensione in particolare, e non dimenticate questo, sulla RITA, che non è un'amica nostra di Marco e mia, ma è la rendita integrativa temporanea anticipata che si può ottenere dal fondo pensione, allora potete telefonarci per intervenire in diretta 800 24 00 24, oppure mandarci un sms o scriverci via WhatsApp al 349 238 6666. Vi ricordiamo che abbiamo come sempre una casella di posta elettronica, è 2didenari@radio24.it. ma adesso è il momento di Meteo Borsa. Allora, Meteo Borsa questa mattina con Pietro Calì, consulente finanziario di Copernicosim. Buongiorno, dottor Calì. Grazie, buongiorno a voi, ben ritrovati. Allora, dottor Calì, dicevo prima, c'è questa attesa del rialzo dei tassi di interesse negli Stati Uniti. Tutte le volte che è venuta questa circostanza, che si è parlato di questa circostanza, i mercati hanno reagito malino. Questa volta cosa succederà? Abbiamo già scontato, come si dice ormai, il nervosismo dovrebbe essere alle spalle? Ma tendenzialmente questo aumento di dicembre è più che scontato dai mercati. Ricordiamoci che finalmente l'economia americana sta tornando alla normalità, alla normalizzazione, come si dice in gergo, e speriamo anche di arrivarci noi pian piano, noi europei. Giovedì ci sarà, oltre che appunto la Federal Reserve che parlerà, ci sarà anche la conferenza stampa di Draghi, che dovrebbe mantenere invece i tassi di interesse invariati per quanto riguarda l'Europa. Stessa cosa anche per quanto riguarda i tassi della Bank of England, che anch'essa parlerà giovedì col suo presidente. Detto ciò, io penso che tendenzialmente le maggiori influenze ci saranno sui tassi di cambio per quanto riguarda questo tipo di decisione. Ecco, allora parliamo del rapporto euro-dollaro, come prevediamo si vada a evolvere, visto che le due banche centrali di riferimento si muoveranno in direzioni opposte, cioè con mantenimento dello status attuale per la BCE e invece rialzo dei tassi per la Fed. Come vedete questo? Appunto, il tasso di cambio, la valuta sarà il vero tema, anche perché ricordiamoci che tendenzialmente a partire da febbraio 2018 ci sarà anche un importante avvicendamento, no, alla Federal Reserve tra, certo, Janet Yellen e Powell. A quel punto, nel 2018, appunto, Trump avrà sia un potere a livello economico e politico, ma potrà anche, utilizzando il suo vicino Powell a livello di politica, ecco, avrà anche uno strumento in più per governare la politica monetaria. In questo senso non è stato ancora molto chiaro Trump, nel senso lui ovviamente per la deregulation del sistema finanziario americano, mentre per quanto riguarda appunto la politica monetaria sembra ancora incerto, non ha ancora preso un'idea chiara quantomeno. Ovviamente per quanto riguarda il tasso di cambio attuale siamo intorno a 1,17 come cambio, sì. L'euro si è leggermente deprezzato rispetto all'1,19 di qualche settimana fa, io rimango ancora molto cauto, secondo me il dollaro potrebbe continuare a deprezzarsi, arrivare magari a 1,24-1,25, sì, che non sarebbe così bene per l'economia europea, perché sappiamo che siamo in piena guerra valutaria, tutti i continenti, tutti i paesi vogliono una valuta più bassa possibile, ovviamente per migliorare e aumentare le esportazioni. Questa soglia dell'1,24 da lei evocata è abbastanza elevata, se guardiamo appunto anche l'andamento delle ultime settimane. Sì, io parlo di quel valore perché secondo la vecchia parità dei poteri d'acquisto, no? Quindi la formula proprio accademica, ecco, dovrebbe assestarsi a quella quota. Ovviamente sarebbe un male per noi europei. Per le nostre esportazioni, insomma, questo è una cattiva notizia, specialmente esatto, per noi italiani. Assolutamente sì, nel senso che però secondo appunto la regola accademica quello dovrebbe essere il livello di equilibrio. Ovviamente non è detto che si raggiungerà nel breve, certo. Le valute ci abituano a essere volatili, ci vorrà tempo per arrivare a quella soglia. Si parlava tempo fa anche di parità euro su dollaro, quindi diciamo che c'è tantissima incertezza. Secondo me la chiave di volta sarà quando entrerà Powell a governare la Federal Reserve. Allora, intanto ne approfitto per dirvi, le borse a Milano sta leggermente sotto in questo momento, poi avremo l'aggiornamento consueto alle 11.30, stiamo a meno 0.16 e così anche per quanto riguarda Madrid con un meno 0.26, le altre borse europee sono moderatamente positive. Ecco, ma già ci scrivono gli ascoltatori su SMS, su WhatsApp, e naturalmente il tema del momento sono i Bitcoin, non ci possiamo esimere, dottor Calì, da una battuta sui Bitcoin, anche perché ieri sono partiti gli scambi sui future. Allora, le borse americane non possono investire direttamente in Bitcoin, ma se si crea un titolo derivato, cioè un future, un titolo che è l'impegno a comprare in futuro, per dirla molto banalmente, un Bitcoin, ecco che allora questo titolo può essere scambiato. Questi scambi sono cominciati al Chicago Board Option Exchange, che è il più importante mercato di future a livello mondiale, e naturalmente già c'è molta curiosità, sono un po' lo strumento del momento. Che cosa vogliamo dire di questi Bitcoin e di questa importante svolta di Chicago, dottor Calì? Sì, sicuramente sono il tema del momento. Secondo me sono un tema anche abbastanza paradossale, perché tutta la normativa italiana e europea sta andando verso la massima trasparenza nello scambio degli strumenti finanziari. Voi oggi parlerete di fondi pensione e della vera importanza dei fondi pensione. Sì. E poi molto spesso le persone sono molto più curiose e si gettano in pasto agli speculatori con questo tipo di soluzioni che secondo me sono altamente appunto speculative più che investimento. Non bisogna stare molto attenti a non confondere. Il mercato dei Bitcoin, delle criptovalute, oggi vale circa 400 miliardi, quindi relativamente piccolo, sta crescendo, sì, moltissimo. E devo dire che il vero valore, come ho detto più volte, secondo me, in tutta questa faccenda, sta nella blockchain, cioè nell'infrastruttura tramite cui vengono scambiati i Bitcoin. In realtà il Bitcoin come valuta, a mio parere, so che vado controcorrente, oggi ha un bassissimo valore intrinseco, quindi tendenzialmente secondo me è abbastanza sopravvalutato come prezzi. Quantomeno per quanto mi riguarda ne rimango fuori da questo tipo di operazione. Ciò che posso consigliare è massima cautela, perché sì, la volatilità è altissima. E se posso aggiungere un'ultima cosa, abbiamo visto nelle ultime settimane che in base alla piattaforma in cui viene scambiato il Bitcoin, ecco, ci sono prezzi diversi, quindi c'è una grandissima opportunità di veri e propri arbitraggi tra i prezzi della stessa valuta su piattaforme diverse. Ma infatti lo segnalavamo anche giovedì scorso in una puntata che proprio abbiamo dedicato a questo tema, diciamo, dei bitcoin e delle criptovalute. Se volete la potete riascoltare dal sito www.radio24.it, sotto il programma 2 di denari trovate anche i podcast, quindi la possibilità di riascoltare quella puntata. Anche lì, anche in quell'occasione, dottor Cali, noi consigliavamo moltissima prudenza. Intanto vi segnalo che il sito per lo scambio dei future sul bitcoin, di questi nuovi titoli, di questi derivati sui bitcoin, è andato in tilt, lo scrive in questo momento il sito del Sole 24 Ore, Pierangelo Soldavini, che abbiamo avuto proprio in trasmissione. Allora, se volessimo riassumere con un tema meteorologico, visto che la rubrica si chiama Meteo Borsa, dottor Cali, cosa possiamo dire? Che non c'è un'allerta meteo sulle borse, ma sicuramente il cielo non è completamente sereno, ecco, non è un momento buono per uscire senza l'ombrello, se vogliamo. No. Soprattutto perché i prezzi, se parliamo di America, che ovviamente è il mercato principale e più importante, sono molto alti, sono abbastanza cari rispetto ai fondamentali. Io immagino che il mercato rimarrà abbastanza tranquillo da qui alla fine dell'anno, perché non dovrebbero esserci particolari novità. Rimaniamo comunque molto positivi sul mercato italiano, su certi tipi di titoli, ad esempio si è parlata di un FCA che questa mattina è partita molto bene, alcune banche d'affari hanno aumentato i target price, quindi ci sono buone opportunità sul mercato italiano, anche perché tendenzialmente il nostro mercato è un po' più sottovalutato rispetto ad altri. Ci vuole tantissima selezione, secondo me, in questa fase. Benissimo, allora grazie dottor Cali, grazie per queste informazioni, tra una decina di minuti gli aggiornamenti in diretta dai mercati e noi passiamo invece all'argomento della giornata con uno stacco musicale. Quando in pensione io me ne andrò, manca poco ormai, bigliettini con gli auguri. E qui Marco Lombardo è andato a ripescare veramente nel passato, sono i Gufi, chissà quanti poi dei nostri ascoltatori li conoscono. Marco Loconte, nostro ospite di questa mattina, li conosce molto bene. Perché, confesso di sì. Sì, perché Marco Loconte, Stefano Elli e chi vi sta parlando, cioè Mauro Meazza, hanno questa abitudine di comporre canzoni sullo stile un po' dei Gufi, come sapete dai Chapter 11. Ma chissà se Giovanni Maggi, che è il presidente di Assofondi Pensione, conosce i Gufi. Buongiorno, dottor Maggi. No. Buongiorno a lei. No, non li conosco i Gufi. Ah, vedi. Diciamo che il nome crea già un certo senso di paura. Sì, specialmente perché dobbiamo parlare di pensioni. Allora, quest'oggi c'è proprio una intervista sul Sole 24 Ore, un'intervista del collega Davide Colombo a Giovanni Maggi, dice il titolo: fondi pensione, bisogna dare priorità ai giovani per aumentare le adesioni in modo da arrivare al 30-35% di forza lavoro coperta. Allora, Presidente Maggi, qui il problema è che i nostri fondi pensione, cioè la previdenza di scorta, quella di categoria per capirci, quella fatta da platee di categorie, che so, i metalmeccanici piuttosto che altre categorie, è troppo poco diffusa, colgo dall'intervista di oggi sul Sole 24 Ore. Ma a che livelli siamo? Allora, condivido con la sua analisi. Allora, i fondi pensione che sono iscritti all'asso fondi pensione sono 32, sì, e hanno 2.670.000 soci su un mercato potenziale di 12 milioni, quindi è chiaro che tocchiamo il 20% di quello che è il mercato potenziale, quindi non siamo contenti. Devo dire che la previdenza complementare, da quella che ormai un po' l'idea che mi sono fatto, rimane complessivamente un'esperienza incompiuta e che purtroppo non riesce a raggiungere in modo generalizzato i lavoratori di tutti i settori produttivi, e che lascia, ahimè, scoperti soprattutto i dipendenti delle piccole, delle piccolissime imprese e quelli del pubblico impiego, quelli a più basso reddito anche, per delle difficoltà oggettive proprio di riuscire anche a raggiungerli. In più devo ribadire il concetto che per quanto riguarda le piccole, le micro realtà, le micro imprese, diciamo il TFR è una sorta di autofinanziamento in un periodo dove le banche, il sistema delle banche, diciamo che aiuta soprattutto le aziende che non ne hanno bisogno, vedono questo strumento come uno strumento a supporto proprio del finanziamento delle proprie attività. Diciamo, certo, che non possiamo crescere molto, ecco, un 20% è un dato basso. Noi riteniamo che se ci fosse, comunque si facesse una sorta anche di, diciamo, di progetto straordinario di comunicazione previdenziale, una sorta di comunicazione istituzionale, col supporto anche dei ministeri, per sensibilizzare comunque le persone, che è molto importante la previdenza complementare, secondo Pilastro, direi che sarebbe una cosa molto positiva. Io chiamo in causa subito l'amico Marco Loconte, che è qui con me stamattina. Marco, queste difficoltà a espandersi per i fondi pensione sembrano, vabbè, da una parte poco prudenti da parte nostra, da parte di tutti noi italiani che aderiamo poco, forse non pienamente consci ancora del fatto che la previdenza di base, cioè la pensione che ci erogherà l'INPS piuttosto che la nostra cassa professionale, sarà fatalmente bassa. Questo a maggior ragione vale per chi ha adesso meno di 40 anni o intorno ai 40 anni. È corretta questa previsione? È attendibile? Ma certamente sì. La difficoltà è trasformare questa consapevolezza, fare in modo che non diventi terrore che blocca e non ingeneri nessun tipo di reazione, ma anzi fare in modo che questa consapevolezza si traduca in pianificazione, in progetto, in qualcosa, alla categoria metto mano alla soluzione e non mi fermo al problema. Purtroppo, diciamo, il tema è molto delicato e il toccare la sicurezza del futuro è qualcosa che invece tra gli italiani genera un senso di blocco, e questo chiaramente è pernicioso, ma non tanto per i fondi pensione o per il sistema, è pernicioso per il singolo lavoratore che non fa abbastanza per il proprio futuro. Questo in sintesi, e non per un difetto congenito dei fondi pensione, che sono degli strumenti molto trasparenti, poco costosi e complessivamente molto efficienti, anche se perfezionabili sotto molti aspetti, ma proprio perché scontiamo diverse difficoltà che sono a capo della cosiddetta educazione finanziaria, la difficoltà di pianificare per quanto riguarda il futuro, e anche, diciamo, un sistema che lascia molto liberi di sbagliare, mi verrebbe da dire, e non guida per mano in maniera sufficiente, come il premio Nobel Richard Taylor. Non abbiamo spinte gentili, insomma. Non abbiamo spinte gentili sufficientemente adeguate per fare la cosa giusta. Ecco. Allora, due cose che vengono fuori da questi primi vostri interventi. L'una mi riporta all'occhio una tabella che trovate sulla pagina 10 del Sole 24 Ore di oggi, è il confronto tra il rendimento dei fondi di categoria, quindi fondi pensione delle varie categorie, quei 2.600.000 iscritti di cui vi parlava prima il Presidente Maggi, il confronto di quanto hanno reso rispetto a quanto ha reso il tasso di rivalutazione del TFR, il trattamento di fine rapporto. Il trattamento di fine rapporto, Presidente Maggi, ha sempre una capacità evocativa, come dire, molto forte su tutti noi, su coloro, quei lavoratori dipendenti che hanno via via lo vedono crescere negli anni e si immaginano di costruirsi così un rendimento di scorta. Però se si guarda questo grafico si vede che la resa di questo investimento è molto molto molto bassa, e uso non a caso tre volte l'avverbio. Quindi allora, prego, dottore. Qui tocchiamo un altro tema che poi tocca anche altri aspetti. Allora, è vero, i rendimenti non sono eccezionali, teniamo anche presente che in prospettiva, ahimè, visto come sta andando il mercato azionario e quanto rende l'obbligazionario, diventerà sempre più difficile garantire certi rendimenti se non si deciderà comunque di andare a investire anche in altre direzioni. E qui vorrei toccare un tema che per me è caldissimo, che è quello degli investimenti anche nell'economia reale. Allora, i fondi pensioni negoziali hanno, i 33 fondi hanno un patrimonio globale di circa 47 miliardi. Più del 90% viene investito in obbligazionario, quindi titoli, diciamo, a debito pubblici e privati, e in azionario quotato, mentre solo lo 0,5% viene investito, diciamo, nell'economia reale, e quindi tutto quel mercato degli asset alternativi, che in questa fase, tenendo sempre presente che comunque gli investimenti, i fondi devono stare molto attenti e quindi devono portare avanti un concetto di prudenzialità sviluppato, sono quei mercati, diciamo, negli asset alternativi nell'economia reale c'è la prospettiva, in un'ottica, diciamo, di medio-lungo termine, di avere anche dei rendimenti più elevati, e questo sicuramente è uno dei motivi per cui bisogna anche pensare di iniziare a investire in questa direzione. Ecco, tra l'altro più di un ascoltatore ci scrive: sì, ma con gli stipendi che circolano di questo periodo è difficile. Ecco Marco, però questo è un tema sicuramente. Noi, sicuramente bisogna avere massimo rispetto di chi appunto fatica, però c'è una cosa che tu dici spesso anche quando vieni ospite nelle varie trasmissioni qui a Radio 24: se uno comincia presto bastano anche piccole somme per garantirsi in futuro una, diciamo, un assegno di scorta apprezzabile, non, diciamo, non diventeremo ricchi, ecco, con questo accantonamento piccolo. Tu fai un esempio numerico che è molto efficace di solito. Beh, se uno parte, il calcolo che avevo fatto qualche tempo fa, che ripeto di frequente, insomma, se uno inizia a 25 anni nella prospettiva, nell'assunto che uno riesca a lavorare già dai 25 anni, ma insomma se uno inizia presto a risparmiare può mettere da parte 20 euro per poterne incassare 100 al mese di pensione. Se invece uno rinvia questa decisione, beh, 20 euro con meno tempo a disposizione diventano 40, 50. Se uno inizia a 40 anni o a 50 anni a risparmiare per avere 100 euro di pensione assicurata al mese, ebbene deve mettere da parte 100. Cioè praticamente se uno comincia troppo tardi, tanto mette e tanto ritroverà. Non ha tempo a sufficienza per veder crescere il suo capitale e di conseguenza la rendita che gli potrà essere garantita in futuro. Paradossalmente si inizia a 53-54 anni e per averne 100 assicurati al mese dovrebbe mettere da parte 130. Che sembra un paradosso, però comunque è una cosa efficiente, perché si assume, insomma, che si matura un diritto di avere ogni mese, finché potremo percepire questa pensione, se non sarà reversibile evidentemente, un diritto a percepire un assegno che, dico 100 per avere un'indicazione di massima, poi ognuno può declinarlo come crede, ma insomma per incassare il diritto ad un vitalizio che sicuramente riuscirà a sostenere in qualche modo il proprio assegno di primo pilastro. Allora, noi ci dobbiamo fermare adesso qualche istante per ascoltare come stanno andando i mercati. Ricordate che potete sempre scriverci o telefonarci 80024 per intervenire in diretta. Tra poco vi daremo la parola, ci sono già degli ascoltatori in attesa, e 349 238 6666 per i vostri SMS o WhatsApp. E adesso le borse. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di Denari. Marco Lo Conte qui sorride, io mi immagino sorrida anche Giovanni Maggi, presidente di Assofondi Pensione, in collegamento perché abbiamo ripescato i Beatles per parlare della Rita. La canzone si chiama Lovely Rita, ma qui la Rita invece è la rendita integrativa temporanea anticipata, e che è una forma di anticipo che uno può appunto chiedere quando arriva a una certa età prima della pensione. E le soglie possono essere differenziate secondo la situazione del richiedente. Chiede al suo fondo pensione una sorta di integrazione che gli serve, o come una sorta di prestito, ecco, per integrare appunto la prestazione. Ci sono degli ascoltatori a cui vorrei dare subito la parola. Sentiamo Alessandro da Bologna che ci parla di TFR e fondo di categoria. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. Niente, voglio essere veloce. Io lavoro per un'azienda, sono un quadro, dove mi dicono che il mio TFR deve essere accantonato in un fondo di categoria, quindi non posso fare altrimenti. Arrivo in una situazione dove ho ritirato il TFR, è stato tassato più del 35% se non mi sbaglio, e volevo sapere se era possibile fare qualcosa d'altro per una futura o fondo pensione o che cosa. Cioè aumentare i versamenti al fondo pensione, se capisco bene. Ma anche un qualcosa di privato, al di fuori del fondo di categoria. E qui andiamo già nel discorso della previdenza cosiddetta individuale. Presidente Maggi, cosa possiamo consigliare ad Alessandro? Allora, io quello che posso dire è che, allora, come presidente di Assofondi Pensioni, mi auguro chiaramente che ci sia sempre un maggior numero di soci che aderisca in prospettiva ai vari fondi, ai 33 fondi che sono iscritti da noi. Devo dire che comunque nel DL bilancio 2018 il governo ha fatto qualcosa, diciamo, di positivo per tentare comunque di aumentare il numero delle adesioni. Si è parlato di TFR, c'è la possibilità quindi di poter fissare una misura ridotta di contribuzione mediante TFR ai fondi pensione, e così si potrà anche un po', diciamo, attenuare la percezione sino al bloccante sull'adesione dell'importante vincolo, diciamo, che di lungo termine che il TFR ha per quanto riguarda l'adesione a un fondo pensione e per il potenziale aderente. Io chiamo per quanto riguarda la RITA, lei prima, secondo me è una cosa estremamente positiva e si pone in una logica di coerenza e consente comunque al lavoratore di uscire con un certo anticipo dal mondo, diciamo, dal mondo del lavoro. La prestazione anticipata di previdenza complementare sotto questo profilo si potrà quindi porre come un'ulteriore forma di sostegno al reddito e all'integrazione, diciamo, effettiva della copertura offerta dal sistema previdenziale obbligatorio. Ecco, io ribadisco che comunque l'attenzione al secondo pilastro, ai fondi pensioni complementari, visto anche i problemi dell'efficienza del primo pilastro pubblico dell'INPS, credo che sia una cosa veramente fondamentale in prospettiva, perché garantirà a chi andrà in pensione a una certa età di avere la possibilità di avere almeno una pensione, diciamo, decorosa, unendo quella pubblica a quella pubblica. A quella di categoria. Marco, a proposito di TFR, fondi pensione, qui ci sono regole un po' come al solito a scalini, perché vecchi iscritti ai fondi pensione, nuovi iscritti, vecchi assunti e nuovi assunti da una certa data, quindi opzione per il TFR lasciato in un posto o in un altro. Puoi farci un quadro complessivo di questa normativa abbastanza complessa, quindi prenditi un po' di tempo per spiegarcela. Cercherò di non annoiare i nostri ascoltatori, anche perché la materia è importante, ma allo stesso modo, come sottolineavi tu, molto articolata, anche perché tutta questa distribuzione di caratteristiche va moltiplicata per tutto l'impatto fiscale prima del 2000, dopo il 2000, dopo il 2006, insomma. Allora, per essere molto, molto semplici, insomma, e lineari, un lavoratore dipendente di un'azienda privata è indirizzato per sua natura, in ragione dei contratti tra i datori di lavoro e i sindacati, verso il fondo di categoria. Chiaramente è libero di aderire in sostituzione del fondo di categoria a un fondo aperto oppure a un piano individuale pensionistico. È sempre il caso di sottolineare come questi strumenti individuali abbiano costi nettamente superiori e quindi, diciamo così, molto più inefficienti dal punto di vista della gestione, perché ricordiamo sempre che i costi incidono in maniera rilevante sulle prestazioni, dunque un punto percentuale di costo in più vale un 20% di rendita in meno a scadenza. Quindi diciamo che, per rispondere anche al nostro ascoltatore, se uno aderisce a un fondo di categoria, per aprire una posizione anche su un fondo individuale, deve trovare un'insoddisfazione veramente motivata in termini di prestazioni, di rendimenti, di strumenti collegati. Cioè, solitamente il fondo di categoria, quello che appunto riguarda la categoria, il cometa dei metalmeccanici, che citiamo sempre perché è il più grosso di tutti, quello che ha più iscritti, conviene dal punto di vista che costa meno come commissioni e normalmente i rendimenti non sono distanti da quelli dei fondi individuali, diciamo nella media parliamo sempre di valori medi. Poi ricordiamo, ci può essere il fondo che fa rendimenti spettacolari e quello invece che li fa molto bassi. Ricordiamo sempre che ogni fondo ha obbligatoriamente una linea garantita, e quindi se una persona vuole una garanzia di rendimento, che chiaramente non è un rendimento straordinario, è molto basso, molto vicino allo zero con i tassi di interesse di questa fase, può avere garanzia di rendimento. Poi, in base alla sua caratteristica anagrafica lavorativa, ossia quanti anni, quanti decenni lo distano dalla pensione, può decidere di scegliere opportunamente diversi tipi di linee di investimento. Il più giovane è, dicono insomma gli esperti, è opportuno che aderisca a un fondo maggiormente azionario, che nel medio-lungo termine dà soddisfazioni importanti, e poi progressivamente passi ad una linea bilanciata e negli ultimi anni prima della pensione a una linea garantita, e quindi in questo modo chiaramente possa scegliere tra diverse, all'interno dei singoli fondi pensione, sia individuali che collettivi, scegliere la linea che è più coerente col suo profilo di rischio. Allora, poi c'è la possibilità di integrare i versamenti. Certamente. Perché il fisco qui ci dà ancora uno sconto. Sì, perché il TFR destinato al fondo pensione non è deducibile fiscalmente, ma i contributi volontari e quelli datoriali hanno invece un beneficio fiscale fino a un limite di 5.164,57 euro l'anno. Un limite che è immediato, cioè la detrazione fiscale è immediata, cioè sì, per l'anno successivo posso detrarre. Già si usufruisce di questo sconto. Se io però volessi per esempio destinare 10.000 euro, perché me lo posso permettere? Perché decido che non mi... Ho vinto il Superenalotto. Oppure decido di, per esempio, che a me i fondi comuni non piacciono, decido di destinare tutto ai fondi pensione. È una scelta particolarmente efficiente, piuttosto che andare a speculare in Bitcoin. Sì. Può essere più opportuno e francamente lo caldeggio. Raccomandabile, insomma, puntare a uno strumento vigilato e controllato come un fondo pensione, piuttosto che andare a cercare certe riffe di cui si occupa Stefano Elli quando scrive di finanza, diciamo, patologica e gente che scappa col denaro. Per tornare nel nostro, se io decido di investire 10.000 euro l'anno al fondo pensione, la quota eccedente 5.164,57 sarà comunque deducibile non nell'anno successivo ma al momento del pensionamento. Quando quella quota lì di 4.000 e qualcosa verrà scomputata da quella quota che invece sarà dove inciderà l'aliquota finale che si impone al fondo pensione, che è molto più bassa rispetto a quella che si impone al TFR, perché va dal 15% e scende fino al 9%. Allora, noi ci fermiamo adesso un istante perché è il momento, è il mio momento del lunedì, cioè il momento del tema in versi, il sonetto. Tempo non ci par mai di porre mente al dopo di lavorativa vita e preoccuparci anticipatamente del fondo di pensione o della rita, che qui non è la Hayworth, né ugualmente una cantante da un contesto uscita, ma quel che potrà dare al previdente un aiutino se a fine partita si scopre che l'assegno da incassare ci vale forse un piatto di lenticchi e si era preso come fa un elastico. Allora la pensione complementare, anche se non ci fa diventare ricchi, ci cava un po' d'impiccio anche nel traffico. Due di denari. Questo brano dei Pink Floyd, caro Marco, è ospite fisso qui a Due di Denari. Obbligatoriamente. Perché, sì, money, denaro. Allora parliamo di denaro subito con Lucio da Perugia, che è in trattativa per uscire dall'azienda e vuole sapere quando potrà chiedere l'anticipo. Io voglio fare una domanda a Lucio: che anticipo vuole chiedere? L'APE o si tratta della rita o dell'anticipo dai fondi? Buongiorno Lucio. Buongiorno, innanzitutto buongiorno a tutti. Dunque un saluto a Deborah che ascolto da tanto tempo e che è la mia preferita. Presenterò. Anche lei, dottor Mauro, che la conosco da poco però. Dunque, la mia azienda sta ristrutturando e sì, penso che entro i primi del prossimo anno io sarò tra quelli che rientreranno in questa ristrutturazione. Sono un quadro dei chimici. Ho versato sempre nel Fonchim sin dall'inizio e ho versato anche il TFR, ho versato anche una quota volontaria. Quando io naturalmente uscirò dall'azienda come disoccupato, avrò la possibilità di entrare in NASPI, questo mi è stato detto. Sì. Potrò chiedere anche un anticipo del Fonchim appena io entro in NASPI? Caspita, allora sentiamo... sì, prego. Un'altra piccola domanda. Io ho un TFR residuo in azienda, lo posso versare nel fondo per poi avere agevolazione sulla tassazione? Grazie. Grazie a lei, stiamo cercando di recuperare il presidente Giovanni Maggi che non è in questo momento in collegamento. Allora qui Marco abbiamo una situazione abbastanza articolata. Innanzitutto un comportamento prudente del nostro, sì, ascoltatore, certo. Perché ha investito sia nel fondo di categoria ma anche ha integrato i versamenti presumibilmente intorno a quella quota di 5.164 euro che tu ricordavi, uh-huh, in precedenza. Adesso lui si aspetta di prendere la disoccupazione, ma potrebbe anche, se sta già a almeno di 5 anni dal compimento dell'età pensionabile, chiedere un anticipo, ad esempio come la rita, perché è uno di quei fattori che possono favorire l'accesso appunto alla rendita integrativa. Per l'APE invece, come però probabilmente Lucio sa, il termine massimo di distanza dall'età pensionabile è di 3 anni. Mi pare di capire che questo non fosse il ragionamento di Lucio. Presidente Maggi, voleva precisare qualcosa? Non so se ha avuto modo di ascoltare la situazione. Perché purtroppo è caduta la linea, mi hanno ricollegato adesso. Cose che accadono. Comunque è un ascoltatore, Lucio da Perugia, che prevede di andare in disoccupazione, quindi di percepire la NASPI, e però voleva capire se può accedere al fondo pensione. Gli abbiamo alla rendita integrativa del fondo pensione, nel suo caso Fonkim. Gli abbiamo ricordato che a 5 anni, mi pare che sia questa l'ultima modifica che abbiamo, 5 anni dal momento in cui potrà ritirarsi in pensione, potrà chiedere la RITA, cioè la rendita integrativa. E invece l'APE, abbiamo sempre ricordato, è a 3 anni massimo di distanza dal pensionamento. Sì, c'è una differenza di 2 anni. Devo dire che comunque, diciamo, il fatto di aver deciso di portare avanti il discorso dell'anticipo sul trattamento, diciamo, pensionistico complementare, sì, è stata una mossa molto coerente da parte del governo attuale, e quindi sicuramente un grosso aiuto a quei lavoratori che decideranno per vari motivi di accedersi 5 anni prima. Ecco, la cosa poi da verificare con Lucio sarà la compatibilità o non compatibilità tra NASPI e RITA. Sì. Marco? Beh, è il caso di precisare che a RITA, la rendita temporanea, sì, anticipata, è possibile accedere per gli inoccupati da almeno 24 mesi. Sì. Ossia, dopo 24 mesi è possibile accedere alla RITA a distanza ridotta dall'età della pensione. Il tema è che il caso di suggerire, tra virgolette, al nostro ascoltatore che in ogni caso è possibile accedere alle anticipazioni dal fondo pensione in diversi casi. Quelli canonici, che sono tipici anche del TFR in azienda, e quelli del caso di un caso di malattia, ad esempio, sì, spese sanitarie, acquisto prima casa. Ma il fondo pensione offre un'altra opportunità, che è quello di farsi anticipare fino al 30% del montante accumulato senza dover addurre alcuna spiegazione, per cui alcuna motivazione, che è un caso che è stato molto utilizzato negli ultimi anni di crisi, certo, economica in Italia, da molti lavoratori che hanno utilizzato il fondo pensione anche prima della pensione, mostrando anche una certa agilità. Ecco, forse il tema è un po' questo. Il fondo pensione è uno strumento molto modulabile e molto, diciamo così, versatile e flessibile. Può essere molto opportuno imparare un po' ad usarlo. Per esempio, il nostro ascoltatore diceva: ma posso mettere il TFR maturato in precedenza alla mia iscrizione, sì, al fondo pensione? Allora, sì, assolutamente sì, la norma lo prevede. Non lo prevede. Il problema è che la legge lo prevede, ma non c'è un regolamento attuativo che spinge l'INPS, nel caso di lavoratori in aziende con oltre 50 dipendenti, a conferire il TFR pregresso all'INPS, in quel caso, al fondo pensione. E quindi nel momento in cui invece entrano in gioco i lavoratori che lavorano in aziende con meno di 50 dipendenti, lì c'è la discrezionalità e del rapporto personale anche con il datore di lavoro che fa la differenza. Ora, anche questo è un buco normativo che forse sarebbe il caso di sanare, proprio per fare in modo che i lavoratori siano sullo stesso livello e tutti abbiamo una flessibilità adeguata. E dunque sì. Allora, abbiamo ancora 3 minuti di trasmissione, chiaramente avremo bisogno di 3 giorni per tutte le curiosità, i casi che riguardano la previdenza di base e integrativa. Ringrazio la pazienza Maria Rosa della provincia di Roma e le chiedo di porci la sua domanda. Buongiorno Maria Rosa. Buongiorno, sarò sintetica. Prego. Una persona che ha iniziato a lavorare tardi, che ha sottoscritto una pensione integrativa, ma che probabilmente per una serie sfortunata di coincidenze non raggiungerà gli anni minimi di contribuzione del sistema obbligatorio, sì, percepirà comunque al raggiungimento degli anni di vecchiaia, diciamo, la pensione integrativa? In caso contrario, che fine fanno i soldi che ha versato? La pensione integrativa riguarda un fondo di categoria o è una cosa che lei ha fatto individualmente? Individualmente. Bene, grazie Maria Rosa. Beh, possiamo confortare l'ascoltatrice, insomma. Allora, intanto gli anni minimi per ottenere una rendita di primo pilastro corrisponde a 20 anni, per cui è una soglia che riguarda sia gli aderenti all'INPS, alla gestione generale, sia per quanto riguarda per esempio i professionisti che aderiscono alle casse professionali. Chiaramente le regole del pensionamento, gli anni eccetera, con tutte le deroghe di cui abbiamo parlato, APE, IRITA eccetera, sono medesime tra fondi pensione e primo pilastro previdenziale. Tuttavia quanto accumulato nel tempo non si perde, per cui è possibile ottenere una prestazione che può essere in forma di capitale se non si supera una certa soglia, o se si supera una certa soglia almeno per la metà in forma di rendita. Bene, allora abbiamo un minuto praticamente in questo momento. Io voglio richiamare in causa, scusandomi con gli ascoltatori che non riusciamo a mandare in onda, ma richiamo in causa Giovanni Maggi, perché domani, come vi dicevo, ci sarà l'assemblea annuale di Assofondi Pensione e tra i relatori tra l'altro sono attesi il ministro del lavoro Poletti, il sottosegretario dell'economia Baretta e poi anche Boccia, il presidente di Confindustria, e Barbagallo, segretario generale della UIL. Ci dice in un minuto, Maggi, che cosa vi aspettate dall'assemblea di domani? Beh, allora innanzitutto una grande partecipazione da parte dei soci di fondi pensione e da parte anche, diciamo, delle strutture organizzative dei loro dirigenti. Poi di mettere al centro della giornata la previdenza complementare, quindi comunque dare una visibilità importante al secondo pilastro, sensibilizzare poi comunque la politica dell'importanza per portare avanti un'educazione di tipo previdenziale, in maniera tale che comunque i cittadini italiani siano coscienti che il primo pilastro pubblico, ahimè, non è più sufficiente per garantire una pensione decorosa. Noi sappiamo benissimo come funziona un sistema di ripartizione che sta passando andando al contributivo, quindi comunque dal retributivo al contributivo, quindi comunque ci saranno le pensioni, saranno sicuramente in prospettiva per chi ha 40 anni, sta passando 40, oggi, sì. Più basse. Sicuramente più basse di quello che si può aspettare, quindi un'attenzione da parte, diciamo, del mondo istituzionale politico al secondo pilastro, quindi un supporto concreto sia a livello di leggi per quanto riguarda sì. E naturalmente una sensibilizzazione. La interrompo perché siamo già